Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.46 e tramonterà alle 16.49. Martedì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Un comparto dell'agricoltura regionale sempre più negletto è quello della frutticoltura, che potrebbe riservare ottime soddisfazioni, non solo economiche. Dopo la prima puntata dedicata al mondo della vite, oggi iniziamo una serie di 5 approfondimenti sulle realtà e potenzialità della frutticoltura in regione. A seguire la rubrica del bio con l'altrettanto importante coltivazione di ceci e lenticchie, strategici anche per la salute. Nella rubrica del vino ritorniamo su temi e tecniche della chiarificazione dei mosti e in quella dell'orto sul ritorno felice del broccolo a foglia. Gnocchetti carnici ripieni in una paradisiaca ricetta nell'angolo della gastronomia e poi per concludere l'andamento dei mercati, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Proseguono i nostri approfondimenti sui vari comparti dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Dopo la prima puntata della viticoltura con il professor Peter Lunger, oggi inizia la serie di contributi del professor Raffaele Testolin dell'Università di Udine, contributi che avranno come argomento il mondo della frutticoltura in regione. Oggi, molto più di una volta, all'imprenditore agricolo sono richieste competenza e professionalità. Sono lontani i tempi in cui a lavorare la terra restava il figlio meno capace. Negli ultimi anni è aumentato finalmente il livello di scolarità tra gli agricoltori, che aiuta certamente nella gestione di un'azienda agricola moderna. Tracciamo allora alcune caratteristiche richieste ad un imprenditore agricolo moderno. L'imprenditore friulano, abbandonata la cattiva abitudine di cedere i propri terreni al terzista perché gli coltivi il mais, è deciso a fare un'agricoltura da reddito, si presenta così. Innanzitutto una mentalità imprenditoriale, il che significa fare il conto di costi e benefici nella scelta di una coltura, significa saper leggere un bilancio aziendale evidenziandone le debolezze strutturali e ponendovi rimedio, significa operare con le banche senza attendere sempre i contributi pubblici che costano 387 miliardi di euro al contribuente europeo e pesano per il 33% sull'intero bilancio dell'Unione. Un secondo aspetto importante sono le conoscenze di agronomia e biologia. È impensabile iniziare la coltura di una specie da orto, da fiore o da frutto che sia, senza sapere le caratteristiche di questa specie, senza conoscerne le varietà più adatte al territorio in cui si opera, senza sapere cosa vuole il mercato e senza conoscere le malattie e i parassiti che l'accompagnano. Abbiamo parlato del patentino per l'acquisto di fitofarmaci. Non posso immaginare un agricoltore professionista che non abbia seguito i corsi e non abbia acquisito questo patentino. Oggi un agricoltore deve passare una buona parte del proprio tempo a monitorare le popolazioni di parassiti e predatori. Deve saperli riconoscere e deve sapere quando i parassiti raggiungono le soglie di danno da richiedere un intervento di contenimento. Quindi l'agricoltore professionale deve aggiornarsi ogni giorno praticamente. È fondamentale per non restare indietro sulle novità varietali, sui nuovi patogeni e parassiti e sulla continua innovazione dei prodotti di difesa. Aggiornamento permanente vuol dire seguire i corsi che organizzano l'ERSA, i sindacati di categoria, le associazioni dei produttori. I produttori biologici, da questo punto di vista, sono molto più impegnati e competenti rispetto agli agricoltori tradizionali. Non tutti, ovviamente. C'è poi il capitolo nuovo, per certi versi, delle trasformazioni alimentari in azienda. Molte aziende agricole si cimentano nella produzione di succhi, confetture, vino, birra e chi più ne ha più ne metta. E fanno bene perché con il prodotto trasformato si raddoppia il valore della produzione agricola. Tuttavia, anche qui non ci si può improvvisare. Non è vero che le nonne facevano sottaceti, sottoli e confetture eccezionali. Qualcuna forse sì, ma alcune perpetuavano tradizioni fatte di ignoranza e di scarse conoscenze igieniche e tecnologiche. Nei prodotti trasformati la tecnologia ha fatto passi da gigante. è necessario seguire dei corsi ad hoc e non improvvisarsi chef stellati. Parliamo allora di nuovo delle nuove tecnologie. Oggi molte cose si imparano usando regolarmente internet. Ovviamente bisogna scegliere bene i siti. C'è anche molta informazione spazzatura. Anche questo è necessario riconoscere per non peggiorare le proprie conoscenze. YouTube è interessante, si può imparare come coltivare, come potare, come innestare, ma bisogna fare attenzione a chi insegna. YouTube è una fonte favolosa di informazione, ma è anche un palcoscenico di cialtroni. Insomma, per concludere, devo dire che l'agricoltura è un'attività a grande impatto ambientale e proprio per questo bisogna farla bene, per non farsi dare degli inquinatori dai cittadini che già hanno il dente avvelenato per le montagne di pesticidi che l'agricoltore riversa nell'aria, nei campi, a volte purtroppo nelle falde. I cambiamenti ci sono e fanno ben sperare. Il mondo agricolo attrae sempre più giovani preparati ed entusiasti di tornare alla terra. Ho insegnato frutticoltura all'università per molti anni e conosco molti di questi splendidi ragazzi e ragazze. I politici devono solo assecondare questi cambiamenti, sburocratizzando il mercato dei terreni e incentivando l'insediamento di giovani agricoltori preparati, senza renderli dei mendicanti con le lusinghe dei contributi PAC e del piano di sviluppo rurale. Anche in agricoltura dobbiamo far crescere degli imprenditori veri. Lavoro, dicevo, nel mondo della frutticoltura da molti anni e non ho mai visto tanto entusiasmo per questa attività, mortificata per decenni da una politica agricola regionale miope che ha sempre privilegiato cerealicoltura e zootecnia. Von de Blave è il grido che mi sento di ripetere e nelle prossime puntate racconterò di alcune specie da frutto che certamente rappresentano un'opportunità per imprenditori agricoli coraggiosi e preparati. Coltivare gli apparentemente umili ceci e lenticchie contribuisce non solo alla sostenibilità del pianeta, alla salute e alla fertilità del suolo, alla salute umana, ma anche alla sostenibilità economica, come ci dice oggi Cristina Micheloni. Sulla necessità di cambiare le nostre abitudini alimentari per pesare un po' meno sull'ambiente e sulle emissioni climalteranti, credo ci sia poco da aggiungere alle tante cose già scritte e dette. C'è invece molto da fare nella pratica, perché nonostante tutto e nonostante il fatto che cambiare ciò che mangiamo sia di gran lunga la cosa più facile da fare, in troppo pochi lo stanno facendo. Però l'interesse e il consumo di legumi, soprattutto tra i consumatori bio, sta costantemente aumentando. Ora bisogna evitare il paradosso e non far loro attraversare i continenti, ma coltivarli qui. Come Enos Costantini ci spiegò chiaramente, le terre friulane hanno visto nei secoli la coltivazione di ceci, lenticchie, fagiolo dall'occhio, fave e altro, prima che il fagiolo sbarcasse dalle Americhe assieme al mais e li sostituisse. Quindi non c'è nulla di esotico né di difficile, possiamo reintrodurle nelle rotazioni. Le leguminose da granella che si seminano a breve sono la fava, il pisello, la lenticchia e il cece, che già a febbraio e inizio marzo possono essere messe a dimora. Negli ultimi anni più di qualche agricoltore locale ci si è cimentato ed abbiamo avuto modo di apprezzare sia fave da consumo fresco che ceci lenticchi da conservare essiccati. In tutti i casi la chiave del successo è la gestione delle malerbe, no erbicidi, sa va san dir. Però le piante, soprattutto di lenticchie e ceci, rimangono poco competitive nei confronti delle eventuali infestanti. Allora che fare? Scegliere sicuramente terreni un po' più puliti e usare strumenti meccanici come gli strigliatori o le sarchiatrici, ma molto più smart è usare l'astuzia, ovvero fare delle consociazioni, per esempio con delle piante su cui le leguminose possano arrampicarsi e allo stesso tempo siano in grado di coprire il terreno e sostituirsi alla flora ventizia. In pratica, orzo, frumento o qualche altra coltura che abbia un ciclo analogo e la cui granella possa o essere consumata assieme a quella di lenticchie e ceci, tipo nel mix da zuppe, o possa essere facilmente separata perché di dimensioni diverse. La fertilizzazione non è un problema perché parliamo di leguminose, quindi l'azoto se lo fissano da sole, però piuttosto aiutiamole col batterio azoto fissatore specifico, che non è quello della soia o del fagiolo, e che può essere distribuito alla semina. Evitiamo in generale però terreni pesanti o proni al ristagno. Ma perché ve ne sto parlando ora che è solo gennaio? Perché se volete seminare ceci, lenticchie o altri legumi poco usuali nella nostra regione, dovete muovervi subito e cercare il seme buono. Buono nel senso che sia della varietà giusta, ma anche che non sia troppo vecchio, altrimenti danneggerebbe la germinabilità e il vigore. Se poi li fate in bio, considerate anche i tempi per la richiesta di un'eventuale deroga. quindi bisogna muoversi subito. Che varietà preferire? Non ci sono molte esperienze locali in anni recenti, ma in generale per ceci e lenticchie preferite varietà con seme piccolo, che sono più gustose e pregiate, e anche perché la cuticola è più morbida e nel caso dei ceci non si separa durante la cottura. Sarebbe banale concludere con un cogliamo due piccioni con una fava, nel senso di contribuire alla sostenibilità del pianeta, alla salute e fertilità del suolo, alla salute umana e anche alla sostenibilità economica delle aziende agricole locali. Però è proprio così, e i piccioni sono almeno 4 per ogni cece o lenticchia seminata. Il professor Roberto Zironi, nella sua rubrica dell'uva del vino, oggi ritorna sui temi e procedure della chiarificazione dei mosti. Con l'impedimento del mosto si raggiunge l'obiettivo di eliminare particelle in sospensione, che, come abbiamo visto, se restassero nel mosto potrebbe determinare un peggioramento delle caratteristiche organolettiche del vino. Nel mosto sono però presenti in soluzione delle sostanze che, durante la fase di produzione del vino e durante la commercializzazione, possono determinare una instabilità del prodotto e arrivare fino alla comparsa di precipitati per effetto di una riduzione della solubilità di questi composti. Le molecole responsabili di questa instabilità del vino prendono genericamente il termine di colloidi. Quindi, nel mosto e nel vino sono presenti colloidi con caratteristiche diverse che, interagendo tra di loro, possono diventare idrofobi e quindi tendere a separarsi, dando prima una torbidità e poi successivamente un precipitato. Questa rottura della limpidità è definita tecnicamente una CAS. Inoltre, in dipendenza delle caratteristiche della materia prima, possiamo aver fatto passare in soluzione anche delle sostanze che non sono interessanti per la qualità del vino. Ad esempio, se stiamo vinificando in bianco uve rosse, tipo le barre spumanti o il pino grigio, potremmo avere una colorazione del mosto da parte dei coloranti rossi che dovrà essere eliminata. L'operazione tecnologica che serve a ridurre la componente colloidale e a facilitare la separazione di queste sostanze non desiderate si chiama chiarifica. È un'operazione chiamata anche di collaggio perché prevede l'inserimento di colli, cioè di sostanze che possono interagire o con le molecole proteiche o con le molecole fenoliche a dare quindi dei precipitati che possono essere separati durante la tecnica stessa di l'impedimento. Le operazioni di chiarifica devono essere quindi svolte scegliendo un agente opportuno a seconda del tipo di sostanze che si vogliono separare. Abbiamo delle colle minerali come la bentonita e il sol di silice che hanno una carica elettrica superficiale negativa e quindi eliminano le proteine presenti nel mosto e nel vino, e delle colle organiche che hanno una carica elettrica superficiale positiva e possono essere delle proteine di origine animale, quali le gelatine, l'albumina d'uovo, la caseina, o anche ottenute da specie vegetali, o polimeri estratti da micelio fungino, tipo il chitosano. Oggigiorno, da una fase sottrattiva dell'enologia caratterizzata da chiarifiche molto spinte, con dosaggi massicci di coadiuvanti e prodotti chimici, si è passata a una tecnica più rispettosa, che prevede un uso di coadiuvanti più naturali, biotecnologici, quali enzimi, lieviti, batteri malolattici, ma anche dei coadiuvanti naturali come tannini, preparati a base di scorze di lievito. Questo cambio di paradigma viene anche definito come il passaggio da un'antica enologia sottrattiva ad una più moderna enologia conservativa o additiva. Oggi per la rubrica dell'orto con Sara Bosco il felice ritorno del cavolo broccolo a foglia. È una tipologia di cavolo particolare in quanto vengono consumate le foglie e non le infiorescenze come avviene per le altre varietà. Infatti le foglie contengono buone quantità di glucosinolati, delle sostanze che, assieme ad altre che fungono da attivatori, vengono combinate e svolgono la funzione antitumorale. Questo processo avviene naturalmente con la masticazione, ad esempio, in quanto le sostanze sono presenti entrambe nelle foglie, ma in maniera separata, e quando si rompono le cellule avviene la combinazione. Sono piante anche ricche di vitamina C e affinché tutti questi componenti vengano preservati nelle maggiori quantità è importante vengano cotte con il minor contenuto d'acqua e per il minor tempo. Questo ortaggio è tipico del nostro territorio, tant'è che tra le aree più famose dove veniva coltivato troviamo Castelnuovo del Friuli, Remugnano, Cordenons e Remanzacco. È una pianta molto rustica, si adatta molto bene al nostro territorio e non richiede grosse cure. Predilige dei terreni di medio impasto, ben permeabili e fertili. Viene seminato nei mesi di maggio, giugno, preferibilmente in semenzaio e poi trapiantati a una distanza di circa 50 cm tra le file e 50-70 cm sulla fila, perché crea comunque una pianta grande. Richiede una buona irrigazione, in particolare nei mesi più caldi. È importante infatti che il terreno non si secchi completamente, perciò meglio irrigazioni più frequenti e con minori volumi d'acqua. La raccolta avviene tagliando le singole foglie, meglio se dopo un periodo di freddo, così risulteranno meno fibrose. La pianta però dopo continuerà a ricacciare nuove foglie, fino al raccolto finale del cuore centrale. Le patologie e gli insetti che lo colpiscono sono le medesime delle altre brassicacee, spesso però risulta meno sensibile all'attacco di questi agenti patogeni e permette perciò di ottenere dei buoni risultati senza eccessivi sforzi. Gli umili e comunissimi gnocchi sono talmente versatili da potersi fregiare di una ricetta di gnocchi del paradiso, come e perché ce lo spiega Roberto Zottar. Gli gnocchi nella loro semplicità rispecchiano la nostra multiforme identità culinaria fatta di tanti campanili e varietà gastronomiche e raccontano in modo corale storie e tradizioni differenti. Cibo povero antichissimo, gli gnocchi sono diversamente preparati con varie farine, semolino, mais, pane, ricotta, zucca, spinaci, verdure, tuberi, anche se inizialmente l'impasto era di sola farina e acqua. Il termine gnocco infatti significa nodo e rimanda più a qualcosa di duro. Si doveva trattare quindi di impasti difficoltosi da deglutire, dei veri e propri strangolapreti. La patata è arrivata dall'America con Colombo, ma in Friuli inizia a essere coltivata dal conte Asquini a Fagagna solo nel 1765. La grave carestia dell'anno precedente la fa diventare un nuovo pane per i poveri che iniziano a integrarla alle farine, ricetta che però non prese mai piede a causa della consistenza del pane di patate che si scioglieva una volta bagnato e non poteva quindi essere utilizzato come base delle zuppe, uno degli alimenti cardine della gastronomia dell'epoca. Per una ricetta di gnocchi di patate come li intendiamo oggi, però, bisogna aspettare il 1801 col libro Il cuoco galante di Vincenzo Corrado a Napoli. A Roma gli gnocchi rappresentavano il piatto del giovedì, secondo il detto giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa, sottolineando l'importanza del giovedì come giorno quasi festivo che necessita di un piatto gustoso e che anticipa quello di magro del giorno successivo. Per ottenere gnocchi di patate sodi esistono vari accorgimenti, come l'uso di patate vecchie e l'accortezza di impastare poco. Più si impasta la pasta, più duri risulteranno gli gnocchi. Anche la pezzatura influisce sul risultato finale. Più vengono preparate di dimensioni elevate e più saranno morbidi. Le ricette locali prevedono l'aggiunta di uova intere a farina e patate, ma io preferisco usare solo tuorli. Oggi vi propongo gli gnocchetti ripieni alla carnica che molti anni fa erano serviti in una trattoria il cui nome è lo stesso del luogo, Paradiso. Fate una pasta per gli gnocchi con 1 chilogrammo di patate, un tuorlo e 250 g di farina. Per il ripieno soffriggete scalogno tritato e salsiccia sgranata, sfumate con vino bianco, portate a cottura e scolate il grasso. Aggiungete montasio grattugiato e con questo farcite degli gnocchetti di patate non più grandi di una noce. Cuoceteli in acqua salata e servite con burro cotto nocciola, con foglie di salvia e spolverate con sciquette fumade grattugiata. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Venerdì scorso, nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, il mercato è stato poco attivo con prezzi sostenuti e il mais, con umidità 14%, è stato quotato tra 26,80 e 27 euro al quintale, IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 28,40 e 28,80. Il frumento tra 31 e 31,50. E la soia tra 58,40 e 58,90. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 8,50 euro e la soia di 13,50 al quintale. Passando ai bovini nel macello, si evidenzia una stabilità delle quotazioni con le vacche fine e carriere di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,80 e 3,10 euro il chilo IVA esclusa. Quelle di seconda tra 2 e 2,70. Mercato stazionario oppure nel settore dei vitelli da ristallo, con le quotazioni che accertano i Blubelga maschi quotati tra 5,80 e 6,30 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 4,70, i frisoni tra 1,70 e 2 euro e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si rileva una lieve ripresa del mercato. I lattonzoli di 30 kg vengono pagati franco partenza a 2,64 euro al chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,57 il chilo. In buona evidenza i destini dei prodotti caseari, con quotazioni attive. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 6,30 e 6,60 euro il chilo IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 7,40 e 7,70. Lo stagionato 12-15 mesi tra 8-8,40, con marchio di qualità tra 9-9,40. Miglioramento del prezzo del latte crudo di vacca franco stalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine giovedì scorso lo ha quotato tra 39 e 39,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel settore degli aviconicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi in salita. I poli a terra vengono pagati tra 1,54 e 1,56 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,26 e 3,30, le faraone tra 3,27 e 3,37, i tacchini maschi tra 1,99 e 2,01, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,72 e 2,78, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,60 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador, diamo un'occhiata alla meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Dopo la prima perturbazione dell'anno, che il giorno 5 ha portato precipitazioni abbondanti, vento forte e temporali, il tempo si è nuovamente stabilizzato. L'afflusso di correnti da nord-est, seguito al passaggio del fronte, ha determinato per tutta questa settimana cielo sereno, atmosfera secca, bora anche forte sulla costa, nonché inizialmente venti freddi anche in quota, ma che in seguito si sono attenuati. Nella notte tra l'11 e il 12 a Trieste la bora ha soffiato anche oltre 100 km orari e negli stessi giorni ha interessato in parte anche le zone orientali e il resto della costa. Per questo motivo in pianura le temperature minime sono state molto diverse tra le zone occidentali, dove sono scese sotto zero, e quelle orientali, dove con la presenza del vento sono rimaste anche oltre i più 5 gradi. Mite anche sulla fascia prealpina, in quanto i venti da nord-est per compressione fanno mantenere alte le temperature anche di notte. Da metà settimana i venti si sono attenuati ed è prevalso il raffreddamento notturno per il raggiamento. Le lunghe notti serene con aria secca hanno favorito la perdita di calore e nelle valli alpine tale effetto è stato più marcato anche per la presenza di neve al suolo. Nei giorni scorsi le temperature minime in pianura hanno toccato valori tra meno 4 e meno 7. Nelle valli spiccano i meno 17 di Fusine, i meno 14 di Tarvisio, meno 12 di Sappada e tra meno 7 e meno 10 sulle prealpi carniche e Piancavallo. In Carnia minime tra meno 4 e meno 8 a seconda delle zone. Sulla costa si è rimasti di poco sopra lo zero, sia per il vento che per l'effetto mitigatore del mare. Da un paio di giorni lo zero termico è salito oltre 2500 metri di quota per l'arrivo dell'anticiclone presente sull'Europa occidentale e ciò ha causato forti inversioni termiche. Passando alle previsioni, il persistere dell'anticiclone sull'Europa occidentale e di correnti settentrionali su quella orientale determineranno tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana sulla nostra regione. A metà settimana sarà solo possibile la formazione di qualche nebbia su bassa pianura e costa di notte. Le temperature in pianura andranno inizialmente da valori leggermente sotto zero delle minime a massime di circa 10 gradi. Sulla costa l'escursione sarà un po' più ridotta e le minime saranno sopra zero. Verso la fine della settimana correnti più fredde da nord faranno scendere ovunque le temperature di circa 5 gradi. In pianura le minime potranno scendere anche al di sotto dei meno 5, sulla costa invece saranno sullo zero, mentre le massime saranno sui 6-8 gradi. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Vincente, gran fredure, San Laurinch, gran calure, e Lungelati, po' caldure. Ovvero a San Vincenzo, il 22 gennaio, gran freddo, a San Lorenzo, 10 agosto, gran caldo, ma l'uno e l'altro poco durano. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.